9 in punto. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, una buona giornata da Simone Spezia. Dunque, oggi parliamo di politica, ma insomma non per restare sulla stretta attualità, quello l'abbiamo fatto ieri parlando delle possibili dimissioni del ministro degli interni, Angelino Alfano. Parliamo di politica per farci e farvi una domanda. Ma davvero tutte queste tensioni che si respirano in queste ore all'interno della maggioranza, e non solo in queste ore, anche nelle settimane scorse, all'interno di questa maggioranza dipendono da casi singoli, dalla difficoltà politica del PD nel stare con il PDL, nel stare in una maggioranza con il PDL, o dal caso di Alma Shalabayeva e della figlia Aula, come sapete, come vi abbiamo ampiamente raccontato, espulse dall'Italia per il Kazakistan in modalità ancora poco chiare. Oppure queste tensioni in realtà dipendono dal fatto che questo governo, che nato come un governo di grande coalizione, proprio per questo doveva dedicarsi e deve dedicarsi a alle cose importanti, avere una vista lunga, una vista, uno sguardo che vada oltre le prossime elezioni, e invece si sta dedicando a operazioni, a nostro giudizio, ampiamente sindacabile, al momento di piccolo cabotaggio. È di questo che vogliamo parlare oggi. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, www.facebook.com/9in.radio24. Se volete mi trovate anche su Twitter, Simone Spezia. Alessandro Maran di Scelta Civica, buongiorno. Buongiorno. Senatore, dunque, senatore Maran, lei cosa dice? Io ho l'impressione che questo governo sia, come dire, piuttosto lento e ingessato da una serie di voti di veti incrociati, e si fatichi a trovare il bandolo della matassa. E appunto la cosa più importante, la vista lunga, immaginarsi come può essere il paese tra 10 anni e iniziare a disegnarlo. Lei che dice? Appunto. Mi sente? Sì. Pronto? Perfettamente, perfettamente, vada. No, questo temo sia il problema, nel senso che io sono rimasto ancora all'ammonimento, forse la constatazione del presidente Napolitano era il novembre del 2011, quando a sostegno dell'ipotesi del governo di tregua, allora si ipotizzava questa definizione, e osservava che l'Italia non potrà ritrovare la propria strada in un clima di scontro permanente, perché l'adattamento che il paese deve affrontare, il processo di adattamento, richiede una coesione nazionale, che non significa poi confondersi, significa condividere le responsabilità. E questo è il punto, e qui la difficoltà di allora è del governo in carica, nel senso che perfino i guai che noi dobbiamo affrontare vengono rappresentati tutti come contingenti, congiunturali, come se la crisi italiana fosse la crisi, dipendesse quasi esclusivamente dalla crisi finanziaria dell'Europa, il che in parte è vero, ma la crisi italiana è precedente, sono 20 anni che il nostro paese cresce meno di tutti gli altri paesi dell'Unione, dell'OCSE anzi. E mai è cresciuto così poco dal dopoguerra. Sono 20 anni che il mancato adattamento produce naturalmente anche un livello di eguaglianza tra i più bassi tra i paesi dell'OCSE, oltre al troppo debito. Insomma, affrontare questo però presupponeva anche appunto uno sguardo lungo, una visione di quel che accade. E in gran parte quel che accade è frutto dei nostri successi dell'Occidente, dell'Italia. La prima grande trasformazione ha a che fare con il trasferimento di ricchezza dall'ovest all'est del mondo, che ha dimensioni e rapidità mai viste nella storia dell'umanità. 1,5 miliardi di persone escono dalla miseria, e non è che questo non ha influenza sulla nostra capacità di competere, di esportare, di mantenere il nostro tenore di vita. L'altro grande elemento, l'andamento demografico agghiacciante per il nostro paese, che rende difficilmente sostenibili gli strumenti di welfare, peraltro molto precario e discutibile, che abbiamo allestito nel dopoguerra. Questi sono i grandi fenomeni da affrontare, e la dimensione che ha assunto il dibattito della politica italiana non lo rendono possibile. Cioè, stiamo a IMU e IVA. Joram Gutgeld, buongiorno. Buongiorno, deputato del Partito Democratico, renziano, estensore di un documento di una 50ina di pagine, un documento economico. economico di una cinquantina di pagine sul quale dicono si vuole basare proprio Matteo Renzi, accusato in queste ore di voler far cadere il governo, accusa che nega decisamente con forza in un'intervista oggi sulla stampa. Allora, Gutgeld, ma che ci state a fare dentro questa maggioranza? Ma io prima di tutto vorrei dire qualche parola a favore, un po' a difesa del governo Letta che in questi primi due mesi ha... Allora, guardi Gutgeld, la fermo perché l'audio è pessimo, adesso proviamo a richiamarla e la recuperiamo. Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Hai scritto tra l'altro un bel commento ieri sul quotidiano, quell'Italia che cresce nonostante, parlando delle nostre imprese che esportano e che insomma continuano ad essere un bel segnale. L'idea proprio che ci sia un pezzo del paese che riesce a resistere a tutto, riesce a resistere a questa crescita asfittica, riesce a resistere ad una pressione fiscale terrificante e ad una burocrazia opprimente e appunto ce la fa. Il rischio è che ancora una volta, come già successo in passato, tutto questo non sia accompagnato appunto da un processo politico adeguato, un processo politico ed economico adeguato, ancora una volta affidato all'individualità degli italiani e degli imprenditori italiani. È esattamente questa, è la foto esatta di una situazione per cui abbiamo potuto verificare, dati alla mano, che pur in un anno difficilissimo, direi glaciale, il 2012, c'è stato un incremento delle esportazioni e una vitalità delle imprese che diciamo, lascia almeno acceso la speranza per quello che potrebbe essere il futuro del paese. Purtroppo il quadro politico è quello che hai descritto tu, lo sguardo lungo, io mi accontenterei invece di 10 anni, mi accontenterei di un anno, ecco, voglio dire, vado diciamo realisticamente su una indicazione più... Dici basta uno sguardo medio-corto, sì, diciamo, ecco, tutto ecco, sommato. Medio-corto, perché la mia sensazione è che diciamo dal momento in cui sono usciti i risultati elettorali delle elezioni a febbraio e poi c'è stato diciamo, il complesso percorso che ha portato a questo governo di larghe intese, sotto traccia poi diciamo, non si siano sia rimasta sullo sfondo l'idea che continuiamo a essere in una sorta di campagna elettorale permanente, per cui il governo fa quello che può con una visibilità cortissima e qui non è più un anno ma è diciamo, a livello di settimane. E le tensioni che noi vediamo ogni giorno, in particolare nel Partito Democratico, dimostrano questo. E il fatto che, ad esempio, si sia promesso solennemente per mesi che una delle prime emergenze sarebbe stata riscrivere la legge elettorale, poi questo dato passa, va nell'ombra, passa sotto traccia e dà l'idea che, insomma, poi alla fine ci si aspetta in qualche modo che si possa arrivare rapidamente a un nuovo confronto elettorale e questo ovviamente taglia le gambe alla vista lunga, taglia le gambe alla possibilità di impostare una politica economica degna di questo nome e si procede a singhiozzo, una navigazione a vista, al piccolo cabotaggio, si fa quello che si può. Però ecco, è un errore strategico questo, perché tra poco noi dobbiamo confrontarci, per esempio, a proposito di viste lunghe, con quello che è l'impatto del fiscal compact per il nostro paese, a partire dal 2015. E quindi dobbiamo confrontarci con una realtà che ci impone di intervenire drasticamente, diciamo, sulla situazione economica. Sì, e c'è tra l'altro chi ci segnala, giustamente, dice magari questa vista corta dipende anche dal fatto che a settembre ci sono le elezioni tedesche, si guarda anche a quello. Guardate, probabilmente ci sarà anche un elemento di questo tipo, però in tutta sincerità non mi sembra l'elemento predominante. Ci scrive Marcello Belleri sulla nostra bacheca Facebook: questo governo è nato come proseguimento naturale della campagna elettorale, come diceva Guido Gentili, ogni partito mira a recuperare qualche votuncolo usando politicamente ogni fatto e vicenda, un governo codardo, scrive Marcello, che sarebbe caduto già da tempo. Ci scrive Enrico, in un altro stato una grande coalizione avrebbe significato grandi poteri, in Italia invece una grande coalizione significa tanti e troppi interessi e personaggi da soddisfare. Forse abbiamo recuperato Gutgeld, ci siamo Gutgeld? Speriamo che adesso mi sembra che vada decisamente meglio. Dunque, allora, mi parta un po' con la difesa di questo esecutivo, va, visto che aveva iniziato così. Dicevo che questo esecutivo ha preso una serie di provvedimenti d'urgenza importanti, rifinanziamento della cassa integrazione, dei precari della pubblica amministrazione, stiamo per approvare una misura per ridurre la bolletta energetica di 500 milioni, quindi una serie di cose assolutamente positive. Sono d'accordo che serve qualche colpo di reni, serve qualche mossa forte. Se abbiamo il tempo ne possiamo parlare di due o tre grandi mosse che io credo è possibile fare anche adesso, anche nella situazione. Intanto ce ne dica una, tanto la trasmissione abbiamo insomma fino alle 9.56, diciamo alle 10 tendenzialmente, quindi abbiamo il tempo. Ce ne dica una intanto. Forte potenziamento del fondo di garanzia al credito per le imprese. Noi abbiamo fondi europei, 9 miliardi di fondi europei non ancora impegnati, che vanno impegnati entro la fine dell'anno, e questo può essere una risorsa da utilizzare per avere un fondo di garanzia che a questo punto potrebbe garantire più di 100 miliardi di crediti per la piccola e media impresa a costi bassi. E questa è una buona idea. Tra l'altro, ancora ieri la Banca d'Italia, nell'aggiornare le sue previsioni economiche, nel dirci che nel 2013 il PIL scenderà dell'1,9%, quindi peggio di quanto non si attendesse, torna a segnalare i problemi di credito nei confronti delle imprese, cioè il credit crunch c'è, vive ed è forte. Poi, se vogliamo, insomma, un giorno parleremo, magari se avremo il tempo, anche di banche e di tutto questo, perché come diceva anche un bel commento del nostro Sebastiano Barisoni oggi nei giornali radio, poi ricordiamoci che sono quelle stesse banche che ai Ligresti hanno concesso, non dico credito illimitato, ma quasi. Edmondo D'Arieti, buongiorno. Buongiorno. Volevo dire semplicemente, appunto, ribadire il concetto, saluto tutti i suoi ospiti e lei, che purtroppo dal prossimo anno bisogna risparmiare 40 miliardi l'anno e la realtà è che non sanno come fare. In Grecia fanno un licenziamento di 25.000 dipendenti pubblici, sa, noi ce ne abbiamo 3.800.000 secondo le ultime stime. È gente che al di là della sanità e l'istruzione non fa produzione, il mondo produttivo si rivolge sempre più all'esterno e l'Italia ha un buco per reggere tutto, dal welfare alle stesse attività di sanità, eccetera, eccetera. Cioè, come pretendono loro di fare un'azione che abbia un'influenza o di avere una vista lunga quando, a partire da Napolitano, cioè non ci fanno scegliere, sono sempre le stesse persone, sempre gli stessi Geronti, sempre gli stessi Boiardi che stanno lì, cioè non abbiamo scampo di fatto, moriremo all'estero con la valigia di cartone. Edmondo, per favore, Grecia, che intanto, giova ricordarlo, ha tagliato giusto ieri l'IVA, licenze dipendenti pubblici, ma intanto ha tagliato l'IVA dal 23 al 13% per i ristoranti. Antonio dalla provincia di Ferrara, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, buongiorno agli radioascoltatori. Niente, io mi sposto un attimino dall'economia per parlare un attimo per le dimissioni del ministro degli interni circa la situazione che si è venuta a creare. A me sembra di sorridere come si fa a pensare che un ministro non venga messo al corrente di quello che gli succede. Qui due sono le cose: o il ministro è purtroppo non è il suo lavoro, o i dipendenti fanno quello che vogliono, che è ancora allora, più grave. Allora, Antonio, di questo abbiamo parlato ampiamente ieri. Io vorrei restare, pur se quello certamente è un problema, vorrei, come dire, restare e magari un paio di domande su questo anche a Maran Gutgeld le farò, però insomma, vorrei restare sul cuore di quelle che sono le questioni italiane. Sentiamo Franco dalla provincia di Bari, buongiorno. Buongiorno, proprio questo, buongiorno a tutti. Proprio questo volevo dire, è una settimana che stiamo parlando sempre di Calderoli e di Alfano, invece qua ci stanno tanti problemi che state affrontando, sicuramente molto più gravi da sistemare, da parlarne, o sarà che lo fanno giusto per coprire le cose loro, ma insomma qua c'è gente che, e sappiamo tutti, che tutti i giorni chiudono le aziende, abbiamo tanti problemi, e ci sta ancora a parlare di questo, cioè si fanno intere trasmissioni, parlare di Shalabayeva e di Calderoli, ma basta, ha detto una battuta, magari sì, non doveva farla, ma finiamola, non che magari, e anche Alfano si dovrebbe dimettere perché cosa, solo per il gusto di sé, di vendola, anche io sono meridionale, sto difendendo Calderoli, avrà fatto una battuta infelice, ma uno dice una parola adesso, no, deve dimettersi, ma fateli lavorare, fateli fare le cose. Qua c'è gente che si ammazza ma tutti il giorni, problema, guarda, il problema Franco è esattamente il fare le cose. Maran, insomma, che cosa ci state a fare dentro questa maggioranza? Anche voi, detta francamente. Noi avevamo pensato, siamo sempre lì, no? La prima domanda che bisognerebbe farsi è: come mai, dopo una campagna elettorale combattuta con le spade di cartone, 2 mesi di trattative inconcludenti e la rielezione rocambolesca di Napolitano, siamo alla stessa maggioranza del novembre 2011, con lo stesso programma, Conti in ordine Europa, e con gli stessi vincoli, addirittura con uno stesso nucleo di ministri tecnici. Com'è che è finita così? Il punto è che, questa è la mia versione dei fatti, siamo sempre là per ritrovare la propria strada. L'Italia ha bisogno di uscire dallo scontro permanente e quindi ritrovare le ragioni della coesione nazionale. Mi sembra che non ci siamo proprio. Infatti, le dico subito, ma dipende anche da molto, non è che dipende esclusivamente dalla cattiveria individuale di qualcuno. E come dire, affrontare l'adattamento di cui c'è bisogno implica ovviamente scelte molto complicate. Che i partiti e gli elettorati stentano a compiere. Implica anche un'analisi un po' più un po' più attenta a come siamo combinati. Faccio un esempio così ci capiamo. Tutti i paesi dell'OCSE hanno 2 forze di polizia, una per il contrasto della grande criminalità e una per il controllo del territorio. Noi abbiamo 8 corpi di polizia, 3 dei quali sono militari, 5 flotte, spendiamo 3 punti di PIL, il 30% in più della Germania. Della giustizia potremmo parlare con termini identici. Ecco, affrontare questo groviglio presuppone uscire dallo scontro, altrimenti non riusciamo nemmeno a tematizzarlo, tanto che nessuno ne parla. Anche perché quando vai a toccare queste cose, tocchi pezzi di elettorato e quindi interessi contrastanti, magari appunto tra i 2 principali partiti della coalizione e non solo, e uscirne fuori è complicato, perché dove vai a toccare, ripeto, tocchi un pezzo di elettorato. Per questo serviva la condizione, la grande coalizione, per far sì che si potessero fare le cose che altrimenti da solo nessuno potrebbe fare. Però... implica però anche che il dibattito esca da questa discussione, se dobbiamo affrontare l'IMU, i problemi strutturali sono così grandi, basta ripercorrere una qualunque delle relazioni del governatore della Banca d'Italia, per l'indicazione puntuale delle questioni che vanno dal collasso della giustizia civile al sistema infrastrutturale, sono le solite cose che sappiamo. In ogni punto, in ogni luogo di questa nostra via crucis, c'è la difficoltà ad affrontare un processo di riforma, non solo ad affrontarlo, perfino a identificarlo con le parole giuste. Altra questione, la dico solo marginalmente, può essere che la vicenda kazaka ci offra anche la possibilità di discutere un attimino, come si dice in TV, sulla questione enorme della nostra dipendenza dai combustibili fossili per il 92%, il livello più alto tra tutti i paesi dell'Unione, e che ci obbliga a relazioni con paesi incredibili da cui dipendiamo, Russia, Libia, Algeria, e le nostre relazioni con l'Iran, cioè condizioni dalle quali noi dobbiamo poter uscire, ma non si può uscire se in ogni paese, quando si tratta di installare un rigassificatore, non lo si può fare, non si vuole le paleoliche, non si vuole le biomasse, persino il solare impattante. Cioè, noi ci siamo messi in una condizione per cui affrontare questi nodi, tematizzarli e poi risolverli implica uno sforzo di coesione. Questo rischia di essere compromesso, perché è vero che il governo, anziché affrontare questi nodi, cerca di eluderli, ed è ovvio che Scelta Civica, lei mi chiedeva cosa ci stiamo a fare, ci sta solo se questi nodi li affrontiamo. Allora, Mario Salerno su Twitter mi scrive: quale politico o formazione è disposto a giocarsi il proprio futuro per realizzare una visione del futuro? Bravo, la domanda è esattamente questa. Abbiamo portato un esempio in passato, discutibile quanto si vuole dal punto di vista delle misure prese, ma dopo Schröder l'SPD non ha toccato palla per anni. Lo stesso Schröder si è giocato molto sulle riforme che ha fatto la Germania e che in parte, non solo quelle naturalmente, hanno condotto la Germania ad essere quello che è. 9 in punto. Carlo da Roma, buongiorno. Eccomi, buongiorno. Io volevo far una riflessione per far ridere un po', anche se è una risata amara. Il paese, l'Italia, ha messo il suo futuro in cassaforte, poi hanno perso le chiavi e hanno chiamato Schettino per trasportare la cassaforte al sicuro. E questa è la sensazione che ho in questo momento, perché non c'è un minimo di visione, non c'è un minimo di preparazione del futuro e si cerca di sopravvivere anche in condizioni disperate con la serie di cortine fumogene. Io ieri sono rimasto molto colpito per sentire il vostro collega Sebastiano che parlava della sua visione di quello che sarebbe successo in casa Ligresti, ma è successo 2 anni dopo. Nel frattempo hanno portato via cassaforte, nave, hanno portato via mezza Italia. E di questa generazione di grandi capitalisti italiani ce ne sono ancora tantissimi in giro. Il prossimo schianto sarà l'Italia, il prossimo schianto sarà Ferrovie. E andare a dire a un ragazzo studia, prendi la laurea perché avrai un lavoro importante, sicuro e certo, devi essere veramente un bandito per consigliare un figlio a fare una cosa simile. Lo devi cacciare di casa a 18 anni e gli devi dire impari l'inglese, il russo, l'arabo, lo spagnolo, ma non tornare a casa fino a che non hai trovato fuori dall'Italia un lavoro serio, perché qua diventa impossibile sopravvivere solo di entusiasmo e di ottimismo, anche senza avere nulla da mangiare, chiaramente. Grazie Carlo. Allora, Guido Gentili, la senti un po' di pancia e nemmeno troppo pancia del paese? Questa è la sensazione che corre nel paese velocemente e con grandissima intensità. Sentivo parlare prima delle cose che diciamo, si potrebbero fare per dare una scossa, no? E sentivo prima l'ipotesi di dare, per esempio, di allargare le garanzie statali per il credito alle piccole e medie imprese. Ora, a parte il fatto che, insomma, questo Stato così a pezzi, indebitato, da tutti giustamente criticato, poi, diciamo, viene comunque sempre invocato nel momento in cui deve dare le sue garanzie statali, e sembra che non si possa fare credito se non col sostegno dello Stato. E dico, ma detto questo, dico, ci sono, secondo me bisognerebbe andare forse ancora più in là, nel senso che, e qui mi rifaccio una proposta del professor Luca Ricolfi, che ha fatto qualche di recente, che ha scritto tra l'altro un divertente libretto che si chiama La sfida, come la destra e la sinistra possono governare l'Italia. Beh, insomma, Ricolfi per esempio proponeva e dice: facciamo una legge per almeno 5 anni che mette nelle condizioni imprenditori, artigiani, esercizi commerciali di assumere giovani senza pagare una tassa o un contributo per 5 anni, come se fossero appunto quelli, diciamo, come se fossero assunti in nero, diciamo così. Ecco, questa potrebbe essere, diciamo, alzare il livello della sfida e dare, diciamo così, un orizzonte e l'idea che destra e sinistra possono collaborare per fare una cosa insieme nell'interesse del paese. Ma secondo me bisognerebbe alzarla a questo livello la sfida, perché altrimenti con il piccolo cabotaggio non si va da nessuna parte. E anche magari ragionare su tagli netti delle tasse. Gutgeld, ce ne dica un'altra di proposta. Allora, parlando di tagli di tasse, io credo la priorità è ridurre le tasse ai lavoratori, non agli imprenditori, lo dico con tutto rispetto per gli imprenditori. Quindi io penso che la priorità assoluta nostra sia quella di ridurre l'IRPEF sulle fasce di reddito basse. Questo si potrebbe fare, la mia proposta di farlo da subito, vendendo, finanziandola con la vendita di un pezzo di Eni e Enel e poi avviando un lavoro serio sulla spesa pubblica e sulla fedeltà fiscale, finanziarla dall'anno prossimo e quello successivo in modo strutturale con riduzione di spesa e aumento di fedeltà fiscale. Questo si può fare subito, noi abbiamo un problema drammatico di consumi, si diceva prima giustamente chi esporta tutto sommato va abbastanza bene, abbiamo un problema drammatico di domanda interna, la domanda interna si può lanciare solo mettendo più soldi in tasca ai lavoratori di fascia medio-bassa. Ma se, mi scusi, ma secondo lei una cosa di questo genere la riesce a fare un governo come questo? Cioè dismettere quote di Eni ed Enel, tagliare la spesa pubblica, secondo lei riesce a farlo questo governo? Sumi. Certo, se vuole lo fa. Assolutamente, se vuole lo fa. Ma, è un problema di leadership, è una previsione leadership che... politica, leadership politica. E io ecco un augurio, un auspicio di non trovare alibi. Noi abbiamo i sindacati, la corruzione, le lobby, la burocrazia, la tecnoburocrazia, sono tutte scuse per non fare le cose. E il governo in questo momento sta cercando scuse, quindi, secondo lei? No, ma questo è comportamento, io sono da poco nei palazzi della politica, è un'osservazione da esterno, se vuole, negli ultimi 20 anni, quello che ho sentito da cittadino, gli alibi. Quindi io, vedendo dentro come funzionano i meccanismi, sono convinto che tutte queste cose si possono fare. Bisogna avere la volontà politica. Questo governo, un governo insediato da poco, come dicevo prima, sta facendo molte cose, ecco, serve un po' mettere un po' di pezzi assieme e avere il coraggio di fare qualche scelta importante. Si può fare. Sentiamo Fabio da Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno, eccomi. Beh, io partirei subito da questo ragionamento. Non è un governo omogeneo, qualsiasi cosa dice una parte, l'altra parte non è d'accordo e quindi è un eterno rinviare. Dal mio punto di vista ci vorrebbe subito una legge elettorale doppio turno alla francese chiara, i cittadini rimanno a votare, perché così questo è solo il governo del rinvii. Parlo da artigiano, vivo in una situazione complessa, complicata, e sono stanco di sentire sempre le chiacchiere, faremo, i problemi li conosciamo tutti, ma con questa maggioranza che non è omogenea, che si porta dietro ancora tutte le scorie di 20 anni di scontro politico, non si risolve niente, perché ognuno si tutela il suo asticello, basta, chiuso, la verità è questa. Buona giornata. Grazie. Marco da Modena, buongiorno. Buongiorno, grazie per questo spazio, per questo punto di vista che ci dà, per sfogarci il sfogatoio pubblico, secondo me. Ma veda, io stavo un po' ascoltando la trasmissione, per me questa Italia è irriformabile, questo è il mio punto di vista, non sto qui a guardare, noi stiamo buttando, perché guardiamo il caso dell'IMU, stiamo buttando praticamente due secchi d'acqua, è un esempio stupido quello che faccio, dentro un laghetto dove riesce fuori un fiume. Cioè, qui se non si affama la bestia, e adesso il signore di prima dice che ha fatto delle buone cose, ma delle buone cose, ma se non si taglia la spesa e non si ha il coraggio di tagliare la spesa, questo cioè noi potremmo pagare tasse su tasse su tasse, ma se non si taglia quello, io faccio un esempio che il signore forse non so se l'ha portato prima, voglio portarlo io, ma i costi standard della pubblica amministrazione, quando una siringa al nord costa la metà di quello che costa il sud. Quelli della sanità, guardi, ne abbiamo parlato esattamente la settimana scorsa. Questo, vede, io questa è una di quelle cose che io non riesco a capire, cioè una cosa delle quali, da questa, per carità, umilissima posizione, è una delle cose che io non riesco a capire. Hai quel prezzo al nord, quel prezzo al sud, io non riesco a capire perché ancora oggi non si riesca ad omologare queste cose. Una cosa che mi fa diventare matto, perché Maran, alla fine le cose è vero che sono complicate, no, apparentemente, ma in realtà sono anche semplici e quindi no, non è che ci vuole così tanto. Bisogna avere coraggio, ha detto nulla. Bisogna avere, ricordo un vecchio libro di Kennedy, quando descriveva Tagliati del coraggio in politica, quello di prendersela con i propri elettori, non con gli altri, quello di affrontare le critiche del proprio bacino di riferimento, non quello degli altri, tutti capaci di criticare a sinistra Berlusconi, Il problema è prendere le distanze dal vecchio nucleo di riferimento, per capirci quello egemonizzato dalla CGIL, tanto per dare un'idea. Ma è proprio per questo che la strana maggioranza, la coesione nazionale, la grande coalizione era nata, cioè trovare le ragioni e la forza per affrontare i nodi antichi. E quello dell'omogeneità credo non sia il vero criterio, perché in questi 20 anni i governi omogenei non hanno prodotto nulla, tanto cioè, sottolineando le difficoltà che oggi affronta lo stesso governo di grande coalizione, quindi siamo sempre lì. Però, faccio di nuovo un esempio, bisogna cercare non solo di tematizzare, ma di affrontare le questioni sapendo quanto gravi sono, per capirci. E il nostro sistema giudiziario è quello che ha la frammentazione più alta, il 76% dei tribunali sono sottodimensionati. E nel paragone internazionale noi abbiamo, sommando tutti i livelli, 1300 tribunali. La Francia, che ha il nostro ordinamento, insomma, gli somiglia, è quello che più ci somiglia, ne ha 700. La Gran Bretagna, che non ci somiglia, ne ha 500. Vuol dire che pensano in maniera diversa. Quando si è trattato con il governo Monti di iniziare una riduzione, di chiuderne 30, c'è stata la rivoluzione. Tanto che non si è nemmeno ancora concluso quella pratica. Ma è evidente che non solo questa è la linea di marcia, perché abbiamo parlato di ridurre le tasse, ma non si possono ridurre le tasse se non si riducono le spese. Lei mi sta raccontando, Marammi, scusi, lei mi sta raccontando una situazione politica che oggettivamente non regge, cioè non regge questa situazione politica. Se lei dice allora che la grande coalizione non è in grado di fare queste cose, non serve, ha ragione. Noi siamo lì per questo, cioè o noi riusciamo ad affrontare questi che sono i nodi della ripresa italiana, perché è inutile girarci intorno, o noi affrontiamo il collasso del nostro sistema educativo, il collasso del nostro sistema giudiziario, la giustizia civile, altrimenti non c'è ripresa che conta. Oggi sul sito del governo inglese c'è, ed è disponibile, la valutazione degli insegnanti, la valutazione dei magistrati, la valutazione dei medici, tutte cose che noi non possiamo fare, non sappiamo fare e non siamo riusciti ad affrontare con nessuno dei governi, né di centrodestra né di centrosinistra. Ma lì è il nodo. Com'è possibile che si parli soltanto di Calderoli, dico tanto per capirci, sì, e nessuno conosca qual è la valutazione, il rating della scuola in cui manda suo figlio, come sono, quanto sono capaci gli insegnanti, o non lo sono? Chi è e che valutazione ha il giudice del proprio distretto? Insomma, questi sono i nodi della trasformazione italiana e se non lo fa la grande coalizione bisognerà trovare un'altra maniera, ma l'approccio era questo. Sì. Posto che, come ci scrive sempre sulla bacheca Facebook Ernesto Belisario, dice: un dato esperienziale, oltre che rilevabile da studi e ricerche, che qualunque governo avvia le riforme più importanti all'inizio del proprio mandato. Quindi, se queste sono le premesse, il governo Letta è un esperimento fallito. Non è una condivisione del fatto che è un esperimento fallito. Vi leggo il commento: è vero il fatto che qualunque governo avvia le riforme più importanti all'inizio il proprio mandato. 9 in punto. Paolo Polonelli mi scrive su Twitter: che premia i machiavellismi e punisce i tagli alla spesa pubblica? Gli elettori, troppo facile autoassolversi sempre. Guardi Paolo, che però è esattamente il punto che stiamo affrontando. Il governo di grande coalizione servirebbe proprio a prescindere dallo sguardo verso il proprio elettorato, ma appunto a guardare alle cose in maniera diversa, intervenire in ambiti come quelli che diceva Maran, che mi sembrano francamente di buon senso, valutazione degli insegnanti e delle scuole. Perché non si riesce a fare? Perché insegnanti e mondo della scuola sono un pezzo dell'elettorato e quindi nessuno riesce a muovere in questa direzione. Vittorio da Frosinone, buongiorno. Buongiorno, ma io volevo intervenire se è possibile sul discorso del governo di coalizione. Questo magari è un governo di coalizione politica, ma il precedente, che era un governo tecnico, cosiddetto tecnico, mi fa specie che il signore che è intervenuto prima, che fa parte del discorso Monti, ha portato il debito pubblico dal 120 al 129% e non è che avesse i vincoli di questo governo. Comunque, o tecnico o governo, ci vuole un governo politico eletto dal popolo con una maggioranza politica. Solo così si possono fare le cose, altrimenti qui fanno solo chiacchiere e non si risolve mai niente. Perché anche il discorso della giustizia che faceva, chiude i tribunali, però se chiude i tribunali su una realtà come l'Italia, dove una causa dura in media 8-9 anni, uno che ha il tribunale a 30 chilometri è diverso se deve affrontare una causa di 8-9 anni con un tribunale a 100 chilometri. E questo significa che le cose... ma infatti va risolto, infatti Vittorio, il problema è che va risolto pure quello, insomma, no? Se no andiamo avanti a benaltrismo, mi scusi. No, no, per carità, ci mancherebbe, però il discorso qual è? Che magari quello è un problema che può essere risolto dopo, i problemi da risolvere adesso è la spesa pubblica. E non mi sembra che nessun governo, né tecnico, né di coalizione stia affrontando questo problema. Ci sono 6.000 erotti enti inutili in Italia, partecipati dagli enti locali, dallo Stato, eccetera, dove si prendono soldi, soldi come presidenti, consigli di amministrazione, eccetera. Cominciamo da lì. Gutgeld, anche là ritorna il commissario alla spending review, come nella precedente legislatura, che francamente abbiamo avuto più rapporti sulla spesa pubblica in Italia che non lo so, insomma, che atti parlamentari. Anche là, insomma, serve questa cosa, o anche là apparentemente un modo per prendere tempo, in tutta sincerità? Ma io credo che l'approccio da prendere sulla riduzione della spesa è un approccio prima di tutto pluriennale, cioè chi pensa che si riesca a tagliare la spesa da oggi a domani mattina, come peraltro si è sempre tentato di fare, anche durante il governo Monti, commette un errore, perché quello che succede è alla fine si fa un taglio lineare, si tagliano i trasferimenti, ma di fatto non si cambia il modo sottostante dell'operato. Sì, però mi scusi, no. Gutgeld, i piani di taglio della spesa sono sempre almeno quelli che ho visto in giro sono sempre pluriennali. Ne cito uno politico, giusto perché era della persona che mi ha preceduto in questa trasmissione, che è Oscar Giannino. Quando ha fatto il suo movimento aveva previsto un piano di 5 anni. Allo stesso modo quello che ha fatto, con tutto rispetto per... No, ma dico Giannino per dirne altri, cioè ci sono anche altri piani, no? Ma scusi, un piano non è un pezzo di carta, un piano vuol dire mettere in piedi risorse, strutture manageriali. Allora, parlo di una cosa che io per 24 anni ho fatto prima di entrare in Parlamento, quindi le tecniche di come si fanno queste cose sono note. A mio avviso nessuno di queste tecniche è stato utilizzato, quindi quando si parla di un piano è un pezzo di carta, un piano sono risorse, persone, mezzi, comunicazione, eccetera, eccetera, eccetera. Nulla di questo è stato fatto. Se vogliamo ridurre la spesa in modo sano, noi abbiamo enormi sacchi di inefficienza, di bassa produttività, però bisogna affrontarlo come lo si affronta in un'azienda, con un'ottica di gestione del cambiamento, con un'ottica di un piano che si misura, che si vede nel tempo, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo bisogno di un approccio diverso, quindi il commissario non so chi è, non so cosa farà, che mandato ha. Certo, quello che è stato fatto negli ultimi 20 anni sulla riduzione della spesa pubblica, vediamo tutti, non ha funzionato. Ce l'abbiamo ben presente. Senta Gutgeld, siamo quasi in chiusura, una domanda per lei e una domanda per Maran, inevitabilmente politica. Insomma, quanto dura alla fine se prosegue così questo governo? Cioè, voi, il vostro gruppo è pronto eventualmente a farlo cadere? No, noi siamo assolutamente a sostegno del governo, anzi quello che stiamo facendo, quello che sto facendo anche in questi giorni è portare delle proposte concrete, io spero, mi auguro che queste proposte vengano accolte dal governo, lavoriamo assieme col governo per farle succedere. Vediamo che cosa succederà. Maran, io ho una domanda, questa gliela devo fare per dovere di cronaca, visto che un senatore gliela vota la fiducia ad Alfano domani, l'ha convinta la relazione? Sì, la cosa, io voterò la fiducia, salvo adesso imprevisti dell'ultima ora e nuove notizie, perché la cosa più agghiacciante di quella relazione potrebbe essere che è andata esattamente così, il che dimostrerebbe davvero una fragilità di tutto il nostro sistema, non solo della politica, ma anche del nostro sistema burocratico amministrativo, che è giunta l'ora davvero di sanare. Se una cosa dovesse riuscire a fare questo governo e quindi portare a compimento la riforma degli assetti istituzionali, potrebbe essere già l'elemento che giustifica tutto questo sforzo, questa fatica, perché il giocattolo si è rotto ed è ora di cambiarlo. No, facciamo una cosa, Gutgeld, mi tolga una curiosità. Se lei fosse al Senato, glielo voterebbe la fiducia ad Alfano oppure no? Mi allineerei alla decisione del mio partito, lo dico non per evitare la domanda, credo che la faccenda è inquietante. Perché i suoi colleghi renziani hanno sollecitato... Dobbiamo prendere una decisione di partito, lo dico con estrema chiarezza e apertura. La faccenda è imbarazzante e inquietante. Però non l'ha convinta la relazione di Alfano, immagino. No. Lo dico così, lo dico di punto in bianco. No, non mi ha convinto la relazione di Alfano. Devo dire le cose anche che ho letto sui giornali del dimissionario capogabinetto, la relazione di Alfano, la relazione del capo della polizia non quadrano tra di loro e non mi è piaciuto per niente lo scaricamento della responsabilità sui tecnici o sui burocrati. Credo che sia, peraltro mi permette di dire quello che ho detto prima, non cerchiamo gli alibi. Sarebbe il caso che facesse un passo indietro? Ma secondo me sarebbe opportuno. Secondo lei Maran dovrebbe fare un passo indietro Alfano? In un altro paese l'avrebbe già fatto. Però in Italia no, va bene. Vi ringrazio, un ringraziamento a Joram Gutgeld con quale magari torneremo a parlare appena avremo occasione, insomma, proprio perché fa parte di questa componente del PD, sta elaborando in parte il programma economico di Matteo Renzi. Ringrazio Guido Gentili, scusa Guido se ti ho abbandonato un po' negli ultimi minuti, buona giornata. No, buona giornata a voi, grazie. Grazie anche ad Alessandro Maran, senatore di Scelta Civica, chiedo scusa ad Umberto da Milano e a tutti gli altri che non sono riuscito a far intervenire in questa trasmissione. Un ringraziamento come sempre a Filippo Aureggi in regia e al grande Alessandro Marco Tulli in redazione. Noi ci sentiamo domani dopo il GR delle 9. Ricordati! Mancano 74 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente.